morte cerebrale, la mutazione del sé. Transcontemporanea, che sradica l'identità e che si innesta direttamente sulla pelle cangiante e polimorfa dei corpi alterati, espansi, mutanti, essere finalmente fuori di sé. Corpo transumano, come luogo di passaggio, di possessione, di transumanza, di passioni nomadiche e ipnotiche, un'anilia di fuga per un sistema di avvistamento che va al di là di ogni capacità di previsione. Transizione, transfuga, transigere, transitare, transitorio, transumante. Bodyworks, un corpo totale, molecolare, ipnotico, tecnologico, mutante, di fatto, il processo di divenire altro, altro da sé, altro degli altri, un concatenamento con altre forme del divenire, una sperimentazione vivente, essere un flusso intenso, istantaneo e mutante, il flusso tra una creazione e una distruzione. Transbodies, i corpi dei rei, delle operazioni chirurgiche, degli innesti, il corpo delle accelerazioni sensoriali, il corpo degli avvenimenti statici, il corpo disseminato nei laboratori genetici, nei rituali tribali,